Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, l'IRAP non si può abolire, perché togliere l'IRAP vuol dire togliere la sanità. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, a Telefisco, iniziativa del Sole 24 Ore. L'IRAP è una tassa stranissima, c'è solo in Italia, va tolta, ma è molto difficile, ha aggiunto il ministro. Io credo che una posizione simile farà perdere al centrodestra un bel pacchetto di voti alle prossime elezioni regionali. Se le imprese possono capire che l'IRAP tenga in vita la sanità, non possono e non riescono ad accettare di dover pagare una tassa anche in caso di perdita di bilancio. Questo, caro Tremonti, è inaccettabile. Inventatevi qualcosa di intelligente, visto che solo in Italia gli imprenditori sono così presi in giro. Ma non tirate troppo la corda, perché anche il mondo delle PMI sta perdendo la pazienza. Tutto ha un limite. E se l'evasione è rimasta un fenomeno incontrollato, significa che ci sono i motivi, giustificati da un iniquo sistema fiscale, arcaico, italico, decrepito, antiquato, confuso e provocatorio. Marco. Caro Marco, il fatto che il sistema fiscale italiano sia arcaico, antiquato e confuso è stato riconosciuto dallo stesso ministro dell'Economia, un ministro che è stato e rimane uno dei maggiori esperti dei temi tributari. E può sembrare paradossale che il ministro ammetta che ci siano problemi di complessità e di iniquità, ma nello stesso tempo inviti ad avere pazienza, perché non c'è modo in questa fase di cambiare radicalmente le cose. Il problema è che la politica italiana degli ultimi 30 anni ha quasi costretto il paese a mettersi la camicia di forza da solo. E la crisi degli ultimi mesi ha complicato ancora di più le cose con entrate in difficoltà e una spesa, tra cui quella sanitaria, che ha pochissimi margini di manovra per essere ridotta. Lei, caro Marco, mette l'accento sull'IRAP, un'imposta che Tremonti ha giudicato stranissima nella sua formulazione, ma indispensabile perché serve direttamente proprio a finanziare la spesa sanitaria. E allora non si può che sperare che diventino concrete le promesse del ministro che ha garantito una riforma nei prossimi 2 anni perché, come ha detto, il nostro sistema non è né giusto né efficace perché fa perdere troppo tempo alle imprese e perché i cittadini pagano troppo e non hanno l'idea a chi pagano e soprattutto che cosa ricevono. Parole del ministro. Ma auspicare e preparare una grande riforma non dovrebbe impedire di fare qualche piccolo passo nella direzione giusta, e alleggerire, o come si dice in modo politicamente corretto, rimodulare il peso dell'IRAP potrebbe essere un passo sicuramente positivo. Gentile Radio 24, l'argomento di questi giorni su come vietare le bestemmie in campo durante le partite di calcio mi ha fatto venire in mente una serata che più che allucinante direi allucinata, a cui ho partecipato all'incirca un anno fa. La serata era organizzata dall'ente sportivo che organizza il campionato amatoriale di calcio nella nostra provincia. Erano riunite tutte le squadre della Lega della zona per affrontare proprio il tema della bestemmia in campo. Il problema c'è, e lascio immaginare agli ascoltatori cosa può accadere in un campo di calcio veneto. In sostanza mi sono scompisciato dal ridere per il tenore delle osservazioni dei partecipanti. La migliore è stata quella di un presidente di squadra da 50 anni che ha asserito che la bestemmia è essenziale nel calcio e che il vero problema del campionato amatoriale è che alcune squadre non fanno trovare il tè caldo in spogliatoio alla squadra ospite. In sostanza, la bestemmia è stata bandita a parole, ma viene tollerata sempre più largamente man mano che il campionato si dirige al suo climax, e lascio immaginare che arbitri dedichino il loro sabato pomeriggio ad arbitrare in Lega Amatori. Complimenti, Andrea. Caro direttore, sempre a proposito di bestemmie in campo e fuori, ho giocato nelle giovanili della Juventus, all'epoca di Trapattoni, allenatore in prima squadra. Ricordo con precisione, sebbene fossi un ragazzino, le bestemmie del Trap contro tutto e tutti in allenamento, in particolar modo gli insulti nei confronti dei giocatori, ad eccezione di Scirea e Platini. A quest'ultimo faceva fare tutto quello che voleva in allenamento. In particolar modo ricordo un venerdì mattina, tutta la prima squadra sul pullman per partire per una trasferta in attesa che Manfredonia in ritardo arrivasse. Appena giunti lui e la moglie, il Trappi incominciò a dire di tutto e di più, usando epiteti poco gentili nei confronti della moglie di Manfredonia, additandola come la causa del ritardo. Il tutto davanti a noi ragazzini che andavamo ad allenarci e ad alcuni tifosi. Luca. Gentile Radio 24, sulla scia della vicenda Morgan, che ha dichiarato in un'intervista a Max che la cocaina è meglio di tanti antidepressivi. Ora ci mancava anche il test antidroga per chi canta a Sanremo. Lo ha chiesto a gran voce il presidente della Commissione Infanzia, Alessandra Mussolini, assieme alla Carlucci e alla Bocciardo. In effetti sentivamo la mancanza di un altro test antidroga. Il prossimo lo fa rifare anche a quelli della prova del cuoco e anche a quelli dei pacchi. L'altro giorno ho visto un concorrente a cui trillava l'occhio. Non vorrei arrivasse un pessimo segnale ai bambini. Oltre a quello antidroga, leggo testualmente, vogliono fare anche il test antidoping per chi canta a Sanremo. Guardate un po', io invece vorrei fare il test di intelligenza a chi spara queste boiate. Francesco. Cara Radio 24, non mi sono mai drogato o dopato. Può darsi che la mia sia una forzatura, ma credo che la radice di questi comportamenti sia spesso la medesima. Desiderio di mortificare il proprio rapporto con una realtà che si detesta o semplicemente si preferirebbe diversa. Penso che trasferire la propria mente altrove sia, nella quasi totalità dei casi, un comportamento negativo. Ignorare la realtà che si detesta è il primo passo per rimanerci permanentemente. L'idea di vivere altrove è sempre seducente, ahimè, ma per cambiare la realtà bisogna viverla, lavorare, soffrire, pazientare. Può darsi che qualche rara mente illuminata possa raccontare esperienze diverse, di piacevole e non autodistruttiva espansione delle proprie capacità. Non ne dubito. Ma per la gran parte di noi comuni mortali, credo che le cose stiano come ho descritto. Cordiali saluti, Roberto. Gentile Radio 24, vi racconto una storia. Mia moglie è fisioterapista in ospedale con contratto part-time al 50% e vuole svolgere, nell'altra metà giornata, un'attività privata regolare, quindi con ricevuta di pagamento. Come la legge del pubblico impiego prevede, ha inoltrato domanda di autorizzazione alla sua amministrazione, che ha risposto con parere negativo. Il parere negativo è motivato dalla legge perché l'attività costituirebbe concorrenza al servizio pubblico. Ma attenzione, se mia moglie potesse fare attività privata, si farebbe pagare, diciamo, 30 euro a trattamento, mentre il paziente che usufruisce del servizio pubblico paga solo un ticket irrisorio, 5 euro a trattamento, perché il resto lo rimborsa la ASL, quindi il servizio ospedaliero costerebbe al paziente talmente meno del servizio privato di mia moglie che non si capisce dove starebbe la concorrenza. Anzi, se un paziente scegliesse il trattamento in forma privata, non peserebbe sulla spesa della sanità pubblica e quindi mi sembrerebbe quasi ovvio che lo Stato favorisse la scelta del paziente per il trattamento privato. Invece no, lo Stato formalmente blocca questa possibilità. Roberto. Gentile Radio 24, con frequenza quasi quotidiana vediamo nei nostri giornali e telegiornali le inquadrature di auto blu che escono da Palazzo Chigi. Presidente del Consiglio, ministri della Repubblica assediati dai media, eccetera. Immagini che fanno naturalmente il giro del mondo con zoom ravvicinati e interessati, in particolare nel mondo dei media tedeschi, perché le auto di rappresentanza usate dai membri del governo italiano sono quasi tutte tedesche. Insomma, il Made in Italy è tanto difeso a voce dai nostri politici quanto pubblicamente irriso. Forse è un'interpretazione nostrana del libero mercato, ma qualcuno si immagina la Merkel al Bundestag a bordo di una Renault? O Sarkozy che esce dall'Eliseo su un Alfa? Non auspico biechi nazionalismi, ma mi aspetto dai nostri rappresentanti una difesa del Made in Italy a tutti i livelli, altro che inneggiare al partito dell'amore per l'Italia e lasciare che le nostre fabbriche chiudano e passare da fessi nei confronti degli amici tedeschi. La coerenza è alla base di una politica seria. E di coerenza non c'è traccia. C'è il liberismo e l'autolesionismo. Una politica seria deve lavorare per costruire certezze, opportunità di lavoro, che devono necessariamente passare attraverso l'incentivazione e la valorizzazione del nostro manifatturiero prodotto in Italia e favorire quanti producono, investono e danno lavoro sul territorio. Io cerco la filiera corta e pago volentieri il latte o la patata di montagna 20 centesimi in più al chilo. Pretendo che su un capo di abbigliamento sia immediato risalire al produttore, vi sia il controllo delle certificazioni e non un'etichetta Made in Italy cucita prima dello sbarco. Non accetto più che il bel paese continui a perdere quote nella hit mondiale del turismo. Perché non aiutiamo anche noi chi fa le vacanze al sud, regalando almeno il salato ticket autostradale a italiani e stranieri che acquistano un pacchetto turistico nel mezzogiorno? O preferiamo costruire un altro centro siderurgico per dare occupazione al sud? Siamo il maggior produttore di agrumi e abbiamo il record del maggior prezzo al dettaglio e della minore remunerazione al produttore. Siamo invasi da beni prodotti in Cina da ditte cinesi. Da beni cinesi prodotti in Cina da ditte italiane. Da beni cinesi prodotti in Italia da ditte cinesi. Da beni italiani prodotti in Italia da ditte cinesi e da personale esclusivamente cinese e con sfruttamento alla cinese. Dove non ci sono regole, dove le democrazie sono troppo liberiste o troppo corrotte e fanno solo l'interesse di pochi, il baratro è alla porta. Se vogliamo farci male, iniziamo proprio dai nostri rappresentanti di governo, che appaiono come quelli che non dimostrano fiducia nei nostri prodotti e acquistano e pubblicizzano con un'efficacia mediatica eccezionale i prodotti degli altri. Grazie per l'attenzione. Sergio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.